Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Benvenuti e benvenute a questa puntata di Mebius. Ciao Chiara. Ciao Federico, eccoci qua, bentrovati. Partiamo con una delle storie più strane. Sì, più strane, mai. Più tragiche, ma anche più importanti, davvero rivoluzionarie per la scienza e per lo studio del nostro cervello. Parliamo di un libro che si chiama Prigioniero del presente. E poi andremo a parlare della Van de Globe, che cos'è? È la gara più difficile, la gara sportiva considerata la più dura fra tutte le attività sportive. E allora partiamo. Questa che stiamo per raccontare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, Chiara, è davvero una storia eccezionale, singolare, fondamentale. Sì, quasi rivoluzionaria in ambito di neuroscienze. In ambito di neuroscienze indubbiamente, ma forse anche più in generale, perché parleremo di un personaggio grazie al quale abbiamo capito come, insomma, abbiamo abbastanza profondamente cominciato a capire come funziona la nostra memoria, come il nostro cervello maneggia i ricordi. Però per fare questo racconto ci facciamo aiutare da Bruno Arpaia. Ciao Bruno. Ciao, salve. Benvenuto. Ci diamo del tu, perché tu scrivi tante cose di scienza, poi sei anche un autore di racconti di scienza. Mi ricordo che abbiamo parlato qui di quel tuo bel libro strano che era L'energia del vuoto. Tu hai fatto un'ampia recensione di questo libro Prigioniero del presente, edito da Adelphi e scritto da Suzanne Corkin, che è appunto la storia di Henry G. Molaison. G significa? Gustav Molaison. Henry Gustav Molaison. È un uomo che è morto nel 2008, ha 84-85 anni, e la sua vicenda nasce negli Stati Uniti quando è un giovane, intorno ai 16-17 anni. E che cosa gli succede? Ha un incidente, se non sbaglio stava andando in bicicletta, viene investito da una macchina, ha delle lesioni cerebrali che evidentemente sono forti. Perché? Perché si manifestano con una forma di epilessia molto forte. Henry incomincia ad avere 2-3 attacchi al giorno, di quelli pesanti, insomma il grande male, no Bruno, come si dice, per l'epilessia forte. Praticamente è un individuo destinato a una vita assolutamente impraticabile. Poi a un certo momento la sua vita cambia radicalmente, tanto che intorno agli anni 50, nel 53, lui subisce un'operazione chirurgica proprio. Bruno, se ci racconti, insomma, come è avvenuta, che cosa gli hanno asportato. Da lì nasce tutta poi la storia davvero intrigante e interessante. Sì, certo, nel 53, quando Molaison ha 27 anni, era molto in voga la cosiddetta psicochirurgia, cioè si pensava di intervenire sul cervello, soprattutto in questi casi di forte epilessia. Sviluppano una nuova tecnica e appunto il chirurgo gli aspira gran parte degli ippocampi e delle amigdale. Il risultato di questa sfortunatissima operazione è che l'epilessia si attenuò, ma Henry Molaison, o HM, come poi sarà conosciuto per il resto della vita dal grande pubblico, proprio per proteggere la sua privacy, perse la capacità di creare nuovi ricordi. Cioè aveva una memoria a breve termine che gli consentiva di registrare fatti, volti, sensazioni per una trentina di secondi e poi dimenticava tutto. Ovviamente ricordava quello che è la sua vita fino a 27 anni, fino all'operazione. Cioè nel momento precedente dell'operazione lui ricordava quello che, insomma, gli era successo, l'infanzia, la vita con i genitori e così via. Sì, quello sì, anche se non perfettamente. A chiazze, diciamo. Sì. Però fondamentalmente la lesione più importante che gli fu provocata fu questa della memoria a lungo termine e della memoria a lungo termine, di una particolare memoria a lungo termine. Allora all'epoca non si sapeva assolutamente nulla di come funzionasse la memoria, di quali aree del cervello fossero interessate, quindi aspirando l'ippocampo e l'amigdala si puntava semplicemente a fermare l'epilessia. In realtà poi appunto abbiamo scoperto che l'ippocampo, grazie ad Henry Molaison, la Corkin, Susan Corkin dice che grazie al suo cervello abbiamo imparato più di tutto quello che abbiamo imparato in 100 anni di neuroscienze. Ecco, non abbiamo detto che lei è la dottoressa che sì, l'ha seguito. Lei ecco. Lo incontrò per la prima volta nel 1962, quando era da poco laureata. Era una postdoc che cominciava a fare la sua tesi di postdottorato e poi per quasi 50 anni, per 46 anni, ha seguito e lo ha studiato con grande frequenza, anche se ovviamente ogni volta che lo incontrava, per Henry era la prima volta che si vedeva. Cioè, era una prima volta che la anche vedeva. Se lui da un certo punto in avanti cominciò a dire di conoscerla, di riconoscerla, e che lei era una sua vecchia compagna di scuola. Che evidentemente no. Nel suo cervello menomato, insomma, cercava quella frequenza, quella abitudine a vedere Susan Corkin, lo doveva per forza di cose legare a un'area del cervello e a una zona della memoria che era ancora attiva. La Corkin appunto dice che abbiamo scoperto tante cose, ma soprattutto una fondamentale, che questo già si sapeva, che esisteva una memoria a brevissimo termine, che è quella che lui conservava, e una a lungo termine. Però la memoria a lungo termine a sua volta può essere divisa in due parti. Ecco. C'è una memoria dichiarativa, che è quella a cui noi facciamo ricorso coscientemente. Per esempio, se vi chiedo che cosa avete fatto ieri a cena, voi fate mente locale e mi raccontate dove avete mangiato, cosa avete mangiato, eccetera eccetera. Mentre invece esiste una memoria non dichiarativa, che è quella che impariamo, cioè che ricordiamo per abitudine, per apprendimento, come andare in bicicletta, anche se non si va in bicicletta per 20 anni, si risale su una bicicletta e si pedala, si sa andare tranquilli. Ecco, Henry Molaison aveva conservato la sua memoria non dichiarativa. Questo gli consentiva, per esempio, di imparare a furia di ripetizioni inconsciamente alcune cose, come per esempio l'uso del deambulatore, che era una macchina che lo aiutava a muoversi. Sì, lui aveva, alla fine, insomma, aveva qualche difficoltà di movimentazione. Sì. E che ovviamente queste due memorie hanno... sono allocate in zone diverse del cervello, e quindi questa fu la prima grande scoperta, sì, in questo ecco. caso, in questa tragedia umana poi alla fine. Sì, in effetti. E lui, Henry, poi godette, diciamo, di una soluzione che effettivamente gli risolse il problema di vita, perché aveva un suo tutore legale e, come dire, firmò un accordo con centri di ricerca per fare una quantità di esperimenti. Per essere studiato. Per essere studiato. Si è un esatto. po' offerto così alla ricerca. E fu accudito, bisogna dire, con grandissimo affetto. Bruno, forse possiamo entrare un po' più nel dettaglio, anche se non abbiamo tanto tempo, per spiegare in che modo la sua testa, per quanto riguardava la memoria, funzionasse male. C'è un esperimento che, a nostro parere, l'abbiamo visto con Chiara, chiarisce abbastanza questo, perché lui c'ha un problema di traduzione dalla memoria corta alla memoria lunga, no? Un esperimento tipico era questo, cioè lo sperimentatore gli metteva sul tavolo, un po' come si fa con i solitari, gli metteva una sfilza di carte. Di carte. Un 2 di cuori, un 5 di picche e via dicendo. E poi gli diceva, va bene, adesso prendi il mazzo, tira fuori una carta e vedi di abbinarla a una di queste. Lui tirava fuori magari un 2, c'era un 2 e lo metteva sotto il 2 e lo sperimentatore gli diceva, bravo, giusto. E così lui faceva per un po' di carte. Poi a un certo momento lo sperimentatore faceva un trucco, che ovviamente non glielo diceva, e cambiava regola. Lui tirava fuori, poniamo un altro 2, lo metteva sotto la fila dei due, e però lo sperimentatore diceva no, sbagliato. È sbagliato. Oh, accidenti, Henry si fermava, però diceva, ah, è un picche, lo metto sotto la fila, dentro la fila dei picche. E quindi questa cosa funzionava perfettamente, riusciva a gestire a stabilire le correlazioni. Il qui ed ora. Va bene, poi finiva la sperimentazione, appunto lo sperimentatore raccoglieva le carte, diceva bravo Henry, va bene, senti, ti è piaciuto quale gioco? E lui diceva, quale gioco? Sì, è era appunto la sua incapacità di creare nuovi ricordi. Esatto, no? Cioè ovviamente la memoria corta dovrebbe riuscire a trasferirsi in però quella lunga... cortissima l'aveva, la nel senso che riusciva a svolgere, certo, l'esercizio. È la memoria a breve termine, quella che dura appunto fra i 20 e i 30 secondi. Esatto. Dopodiché, se noi non la fissiamo in qualche esatto modo nel cervello, scompare. Ed è, beh, questo ovviamente è anche una cosa per l'evoluzione, non possiamo ritenere tutto. E ovviamente fissarla nella memoria significa farla entrare in dei circuiti neuronali in zone apposite, in cui abbiamo scoperto che appunto l'ippocampo e l'amigdala sono zone deputate a questo, ma Henry, non avendole più, non riusciva a farlo, e non riusciva a farlo nemmeno perché fissare un ricordo significa anche associare tutte le varie sensazioni che quel ricordo provoca, e più sensazioni gli associamo, più quel ricordo si imprime a fondo nella nostra si memoria, sedimenta. E ovviamente Henry non poteva farlo. Questo ha a che fare ovviamente con la memoria e con il passato, ma secondo me una delle cose più interessanti è che ha a che fare soprattutto col futuro. Nel senso che quello che poi si è capito è che se non riusciamo a fare questo procedimento di fissare i ricordi nella memoria, non riusciamo nemmeno a progettare il futuro. Qualcuno ha sostenuto che il cervello è una macchina di futuro, evolutivamente serve a prevedere le reazioni del mondo cioè le azioni del mondo circostante per poter avere delle reazioni. Se non riusciamo, pare che insomma fondamentalmente i circuiti della memoria, dei vari tipi di memoria, siano gli stessi circuiti con cui noi elaboriamo previsioni rispetto al futuro. Ed ecco perché Henry Molaison viveva in un continuo presente ed era, come dire, era imprigionato nel presente. Nel presente, e non poteva viaggiare mentalmente né indietro nel tempo né in avanti. La Corkin ovviamente sostiene che in questo modo lui non era mai stressato. Aveva raggiunto quello, no, che i buddhisti tentano di nirvana, perché non era oppresso dai ricordi del passato né dalle ansie del futuro. Però allo stesso tempo è impossibile anche creare dei rapporti umani, insomma, incontrando una persona dopo 30 secondi non ti ricordi più di averla incontrata. Assolutamente, cioè, siamo completamente... a meno che appunto, come nel caso della Corking o di qualche infermiera del centro dove aveva vissuto gli ultimi, sviluppava una certa familiarità che lui poi in qualche modo elaborava nel suo cervello. Per esempio la Corkin era per lui una sua compagna di college, cercava in qualche modo di sistemare nell'armadio rotto della sua memoria questi ricordi. Sì. Ed è interessante anche da questo punto di vista la non capacità di formare nuovi ricordi è strettamente legata all'identità. Nel senso che senza ricordi, ovviamente senza memoria, noi non siamo nessuno. Henry aveva un'identità, una autoconsapevolezza di sé dovuta ai 27 anni prima della precedenti. Sì, certo. E quindi era uno brandello di identità al quale si aggrappava e più o meno tirava avanti come poteva. E infatti una cosa curiosissima è che lui non aveva percezione di invecchiare. Assolutamente. Quando no. Gli dicevano, beh, ma insomma, lei ormai ha una certa età, lui si guardava anche allo specchio, ma non coglieva. Era rimasta ai 27 anni, sì, insomma. Ma non coglieva neanche le differenze fra il sé di come si ricordava e quelle che vedeva allo specchio. Certo. Come non era mai riuscito a capire effettivamente che cosa quando morirono i genitori, no? Per lui ovviamente registra, no, la morte del padre, però poi non può ricordarla, elaborarla. A un certo punto la Corkin racconta, se posso leggere anch'io un pezzettino, dice: qui ho una discussione con me stesso su papà, disse, racconta la Corkin. Vede, non sono sereno nella mia mente. Da una parte penso che sia stato chiamato, che se ne sia andato, ma dall'altra penso che sia vivo. Cominciò a tremare. Non riesco a capire, disse. Cioè, aveva un conflitto enorme su queste cose, ovviamente nella sua mente, perché non aveva gli strumenti, l'hardware, diremmo, con pessima metafora, su cui registrare alcuni eventi. Vabbè, il libro in realtà sì, è ricco di esperimenti, aneddoti e appunto poi tutto quello che è arrivato dalle scoperte legate alle neuroscienze e ai misteri appunto del cervello. Una descrizione della vita con lui, del rapporto con lui, soprattutto in tutte le parti finali. Ricordiamo il titolo. Allora, edito da Adelphi, Prigioniero del presente, scritto da Suzanne Colkin. Grazie Bruno, buon lavoro. Prima di sentire le informazioni sul traffico, vi voglio invitare a venirci a trovare all'Expo. Vi aspettiamo domenica 5 luglio alle ore 15 al padiglione Cibus e Italia. Tanto per intenderci, l'ingresso Est Roserio, e lì faremo una diretta live di un'ora, quindi vi aspettiamo. E ora le informazioni del traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Si parte dalle Sables d'Olonne, cittadina sulla costa atlantica, nella Vandea francese. Si parte ogni 4 anni con barche a vela da regata e si naviga in solitaria, senza assistenza, senza soste, attraversando tutti gli oceani del nostro pianeta. Questa è la Vendée Globe, un giro del mondo. È una gara che è considerata la più dura e difficile fra tutte le possibili attività sportive. La prossima Vendée Globe partirà il 6 novembre del 2016 e vi parteciperanno 20 imbarcazioni. Alla gara possono iscriversi barche che appartengono a una categoria precisa. Si tratta di monoscafi, ovvero strutture forgiate con un unico stampo, della lunghezza di 18 metri e 28 centimetri. La gara. Si prende il largo dalla costa francese e si scende giù lungo tutta l'Africa, doppiando il Capo di Buona Speranza. E da qui inizia il lungo e più difficile tragitto, perché le imbarcazioni non risalgono e si mantengono basse, con il polo sud alla loro destra. Viaggiano nell'estremo sud dell'Oceano Indiano, passano sotto l'Australia, attraversano il Pacifico meridionale con la prua dritta verso Capo Horn, l'ultimo lembo di terra del continente sudamericano. E da qui si risale l'Atlantico per tornare in Francia, ma ci si arriva dopo settimane di mare estremo e di venti freddi che creano le condizioni perché gli skipper possano anche avere problemi di ipotermia. Il tempo, quello che scorre. Nel migliore dei casi la Vendée Globe si chiude dopo 2 mesi e mezzo di navigazione. Una barca italiana parteciperà alla Vendée Globe e il suo skipper è Andrea Mura. I francesi, che da sempre si ritengono, ed è sostanzialmente vero peraltro, maestri nell'arte di navigare, l'hanno soprannominato Le Sard, il sardo, e con questo nickname hanno riconosciuto la sua bravura. Qual è il problema principale fra i tanti, tutti difficili, che Andrea Mura e gli altri skipper dovranno affrontare? Forse l'avete già immaginato. Dormire. Si dorme sempre meno, alla fine 2, 3 ore, 4 a notte, dipende da come uno ha vissuto la giornata, quello che uno ha fatto, però tendenzialmente più si dorme e meno si cammina, perché ovviamente si mette l'autopilota e la barca va un po' più piano. Essere svegli vuol dire che hai un controllo maggiore del mezzo e riesci a guadagnare della velocità, però ovviamente dormire tutti devono. Quindi bisogna gestire bene il sonno e cercare di dormire in quei momenti in cui le condizioni sono un po' più stabili e quindi la barca può andare abbastanza bene anche da sola. Perché l'autopilota non riesce certo ad essere efficiente quanto uno skipper che, come si dice in gergo, continua a regatare. Le SAR però è anche una società italiana che investe in questa sfida altamente tecnologica, e vedremo fra poco come questa definizione sia quanto mai adeguata. Investe con una formula imprenditoriale anch'essa innovativa, come ha sinteticamente spiegato Dario Calogero, uno dei soci di Le SAR, durante la conferenza stampa della presentazione di questa avventura. Le SAR è una società di servizi specializzata nella gestione di eventi di carattere agonistico, sportivo, di vela oceanica, e credo l'unica, sicuramente la prima. In questo momento società di management di programmi agonistici di vela oceanica d'altura italiana. Esistono aziende di questo tipo in Francia, in UK, diciamo a est sicuramente, Australia, Nuova Zelanda, eccetera, Noi crediamo che esista la possibilità per un'azienda italiana di diventare, diciamo, uno dei leader mondiali, uno dei player mondiali nei servizi rivolti ai grandi brand che intendono investire su eventi sportivi di questa portata. Noi abbiamo in Italia, diciamo, una percezione un po' alterata di questi eventi. Cose come la Rue de Rome o come il Vendée Globe sono eventi sportivi di portata globale, mondiale. Hanno un audience, diciamo, paragonabile a eventi come i mondiali di calcio o come i Sei Nazioni di rugby. In Francia, io sono stato alla partenza della Rue de Rome, c'era a Saint-Malo 1.800.000 persone. E sulla costa, quando sono partite le barche, c'erano 350.000 persone. Andate al blog di Mebius e troverete un po' di immagini della imbarcazione che sarà finita a metà luglio. Le regole che le barche devono rispettare per partecipare alla gara sono poche ma molto precise. Fondamentali quelle relative alla sicurezza. Filippo Ciarchi, team manager del progetto. La barca innanzitutto ha una serie di compartimenti stagni, per cui deve essere in grado di rimanere a galla anche nel caso di una falla, perché urta qualcosa piuttosto che una avaria, ed è fatta in modo da avere delle paratie che sono proprio, è possibile chiudere in maniera stagna in modo tale che si riesca a isolare un'eventuale falla piuttosto che. Dopodiché comunque, oltre a questo, deve avere un minimo di volume di galleggiabilità a bordo, sigillato, e nel caso nostro, ma anche di tutti gli altri tendenzialmente, è della schiuma, immaginate come se fosse del polistirolo, qualcosa che sta a galla sempre, esatto, no? Cioè, ma anche il Titanic dovesse succedere, la barca rimane a galla. Dopodiché deve essere in grado di autoraddrizzarsi. Ecco, questo è un punto un po' singolare. Infatti diciamo che è disegnata in modo tale da poterlo fare, ma ha anche la chiglia basculante, sia perché è un grosso vantaggio in navigazione, perché permette di spostare il peso dal lato giusto, diciamo, sia perché con la chiglia basculante, nel caso in cui la barca si ribaltasse, è possibile azionare la chiglia basculante per far sì che la barca si raddrizzi da sola. La chiglia è azionata da un pistone idraulico che la sposta da in centro piuttosto che da un lato piuttosto che dall'altro, e questo rimette, per una dinamica dei pesi, rimette in assetto la barca. Esattamente. Questo test non è solo teorico ma è anche pratico. Dopo che la barca viene varata, la prima cosa a cui si deve sottoporre per essere, diciamo, omologata viene con la gru capovolta. Dopodiché lo skipper è all'interno, lo skipper aziona il meccanismo della chiglia e la barca si raddrizza se tutto è stato calcolato correttamente. Ma Andrea Mura non è solo lo skipper, lui progetta anche vele con una propria società. Anche qui oggi c'è tecnologia avanzata. A differenza di una volta in cui un velaio comprava la pezza di tessuto, come un sarto compra la pezza e costruisce l'abito, oggi io progetto il tessuto con cui farò le vele, e quindi la progettazione fa un passo indietro, come dire, perché prima di confezionare la vela bisogna progettare il tessuto, e progettando il tessuto sto progettando tutti i rinforzi, tutte le strutture, con dei software molto sofisticati, e richiede un numero infinito di ore. Dopodiché quando questo tessuto viene costruito e mi arriva in un cartone, lo svolgiamo e lo apriamo per terra, la vela è pressoché in gran parte già fatta. In più questi materiali sono realizzati con una fibra, si chiama di Spectra o Dyneema, che è la stessa cosa, una fibra molto avanzata, superiore al carbonio, superiore al Kevlar, molto più leggera, molto più resistente e praticamente indistruttibile agli ultravioletti, al fuoco, alle pieghe, anche al coltello. Non riesci neanche a tagliarla con le forbici perché si impastano le lame, ci vogliono forbici al titanio particolari. Si chiamano foil e sono un nuovo, come vogliamo chiamarlo, un nuovo pezzo della barca. Pensate ai due baffi di Salvador Dalì, lunghi un paio di metri, disposti a destra e a sinistra dello scafo. Perché le Sard monta questi baffi? Ancora Filippo Ciarchi. I foil hanno due effetti principali. Il primo è quello di dare una spinta verso l'alto nel momento in cui la barca ha velocità, quindi da ferma non fanno nulla. Nel momento in cui la barca ha velocità danno una spinta verso l'alto, contemporaneamente danno anche una spinta di lato, ovvero la pressione del vento sulle vele tende a far sbandare la barca. I foil contrastano questa spinta, okay. E quindi hanno appunto il doppio effetto di alleggerire la barca, non la fanno volare come i catamarani di Coppa America, e contemporaneamente aumentando il momento raddrizzante, quindi diciamo tendendo a far sbandare meno la barca, permettono di tenere la barca più leggera, perché l'altro modo per contrastare la tendenza a sbandare la barca del vento sulle vele è quello di riempire dei serbatoi, che si chiamano ballast, serbatoi d'acqua dalla parte opposta della barca, parte opposta, per riequilibrare. Esattamente, cioè, sarebbe come, siccome poi questa barca si porta in solitario, le barche da equipaggio avrete visto sicuramente diverse volte, hanno l'equipaggio che si siede tutto da una parte, no? Mentre invece questa barca qui ha dei serbatoi messi in posizione strategica, diciamo, che vengono riempiti d'acqua per, ovviamente sì, l'acqua diciamo ti aumenta il momento raddrizzante, ha però lo svantaggio di appesantire, per cui i foil spostano più in avanti il momento in cui il vento diventa talmente forte che hai bisogno di riempire i ballast, e quindi la barca naviga più leggera. Perché anche se questa si appresta a attraversare tutti i mari, meno acqua tocca, meglio è. Sì, assolutamente. Meno resistenza incontra, meglio è. Adesso mi trovo nel cantiere della Persico Marine, vicino a Bergamo. È ovvio che può sembrare strano un cantiere navale a Bergamo, eppure la Persico Marine è un'eccellenza mondiale, con una storia aziendale davvero singolare, perché, pensate un po', nasce come falegnameria. Bene, qui incontro Marcello Persico, amministratore dell'azienda. Monoscafo, ovvero un oggetto così grande che però è stampato integralmente in un pezzo solo. Perché il procedimento parte da una stoffa di carbonio. Le sarde è fatta così, di carbonio, che in cantiere arriva sotto forma di lenzuoli nei quali il carbonio è miscelato con delle resine. E c'è uno stampo sul quale si spalmano i fogli di carbonio. E poi, come si tira fuori dallo stampo lo scafo? Allora, in realtà, nello stampo, una volta terminato lo stampo, si mette un distaccante prima e poi si mettono questi strati, queste pelle di carbonio, e per il quale si fa un sacco del vuoto per garantire che aderiscano perfettamente sulla superficie dello stampo. Vengono cotte in forno fino a 90 gradi e quindi la resina, che è già preimpregnata nella pelle, nel tessuto di carbonio, fa il suo processo chimico e poi solidifica. E a questo punto prende la forma dello stampo. Il distaccante aiuta a togliere la stampata, che è lo scafo, dallo stampo. Dico che non è una roba facile, infatti se uno fosse stato qua è un processo che dura quasi una giornata, dipende dalle geometrie, però le immagini che per molto tempo lo scafo è stato tenuto sotto vuoto contro le pareti dello stampo. Ha subito stress termici perché tutte le cotture delle varie pelli portate a 90 gradi, e quindi anche col distaccante è difficile toglierle. Quindi dicevo prima, ma abbiamo con gli idranti dell'antincendio a buttare dentro l'acqua per aiutare a far staccare lo scafo dallo stampo. È stato veramente uno studio e un lavoro che non banale. Senta, guardando lo scafo sembra proprio che sia un pezzo unico. No? È un pezzo unico, deve essere un pezzo unico, e anzi un processo di qualità che noi facciamo su tutti i manufatti viene fatto con un controllo ultrasuoni, tutta la superficie dello scafo, per verificare proprio che non ci siano delle piccole bolle d'aria tra un laminato ed altro, tra una pelle e l'altra, perché queste bolle, quando poi la barca subisce degli impatti con le onde in mezzo all'oceano, ripetute nel tempo, rischiano di propagarsi e creare delle delaminazioni. In conclusione chiedo ad Andrea Mura. Senta, ma agli skipper oceanici cosa si dice? In bocca alla balena o no? Io dico buon vento di Sardegna. Due mesi e mezzo dormendo 3 ore, 4 ore al giorno, noi non possiamo farla, però ne parleremo. Lo seguiamo, ma non possiamo seguirlo, diciamo, fisicamente. Poi per me il problema non sarebbe il dormire, ma sarebbe la solitudine, devo dire. Che qui sarebbe più che giustificato. Federico, prima di chiudere ricordiamo agli ascoltatori di venirci a trovare il 5 luglio alle ore 15 per una diretta live dall'Expo. Siamo al padiglione Cibus e Italia. Bene. Buona settimana a tutti e a tutte. Ciao!